A dir la verità, questo errore dei parenti del signor Nissim Bernard, i quali non sospettavano la vera ragione del suo annuale ritorno a Balbec e di ciò che Madame Bloch chiamava pedantescamente la sua meridiana infedeltà culinaria, questo errore era una verità più profonda e di secondo grado. Infatti, lo stesso Nissim Bernard ignorava quanto amore per la spiaggia di Balbec, per la vista del mare che si godeva dal ristorante e quanta mania abitudinaria entrassero nel piacere che gli provava a mantenere, ballerinetta di un'altra specie, ancor priva del suo Degas, uno dei suoi addetti, i quali poi erano anch'essi fanciulle. E così il signor Bernard intratteneva col direttore di quella sorta di teatro che era l'albergo di Balbec e con il regista e direttore di scena, Aimé, il cui ruolo in tutta questa vicenda non era dei più limpidi, relazioni eccellenti. Un giorno si sarebbero dati da fare per ottenere una magnifica sistemazione, forse un posto di direttore di sala. Nel frattempo, il piacere di Nissim Bernard, benché poetico e placidamente contemplativo, ricordava un po' l'atteggiamento di quei donnaioli, lo Swan di una volta, per esempio, che recandosi in società sono sicuri di incontrarvi la loro amante. Bastava che il signor Bernard si sedesse per vedere l'oggetto dei suoi desideri avanzare sulla scena reggendo della frutta o dei sigari su un vassoio. Ogni mattina, così, dopo aver baciato la nipote, essersi preoccupato dei lavori del mio amico Bloch e aver dato da mangiare ai suoi cavalli qualche zolletta di zucchero posata sul palmo della mano, era preso da una fretta febbrile di arrivare per colazione al Grand Hotel. Se la casa fosse andata a fuoco o alla nipote fosse venuto un colpo, non c'è dubbio che se ne sarebbe andato ugualmente. Temeva come la peste un raffreddore per il quale, ipocondriaco com'era, sarebbe rimasto a letto e che gli avrebbe reso necessario far chiedere ad Aimé di mandargli a casa, prima dell'ora di merenda, il suo giovane amico. Gli piaceva, d'altronde, tutto il labirinto di corridoi, di ripostigli segreti, di salotti, di guardaroba, di dispense, di gallerie che era l'albergo di Balbec. Per atavismo d'orientale amava i serragli e la sera, quando usciva, lo si vedeva esplorarne furtivamente gli intrichi. Mentre, avventurandosi fin nel sottosuolo e cercando malgrado tutto di non farsi vedere e di evitare lo scandalo, il signor Nissim Bernard, nella sua ricerca di giovani leviti, faceva pensare a questi versi della Juive. «O Dio dei nostri padri, discendi in mezzo a noi, cela i nostri segreti agli empi occhi indiscreti». Io, al contrario, salivo nella camera di due sorelle che erano venute a Balbec come cameriere di una vecchia signora straniera. Erano, nel gergo degli alberghi, due courier, e in quello di Françoise, la quale si figurava che un corriere o una courier non facessero altro che andare avanti e indietro di corsa, due coursier. Gli alberghi sono rimasti più nobilmente al tempo in cui si cantava «È un corriere diplomatico!». Benché fosse difficile per un cliente andare nella camera di una courier e viceversa, avevo stretto ben presto un'amicizia assai viva, sebbene altrettanto pura, con quelle due giovani, Mademoiselle Marie Gineste e Madame Céleste Albaret. Nate ai piedi delle alte montagne della Francia centrale, in riva a ruscelli e torrenti, l'acqua scorreva proprio sotto la loro casa di famiglia, facendo girare un mulino, e l'aveva più volte devastata con l'inondazione. Sembravano averne serbata la natura. Marie Gineste era più precisa, svelta e sbrigativa, Céleste Albaret più molle e languida, calma come un lago, ma con improvvisi terribili ribollimenti durante i quali il suo furore ricordava la pericolosità delle piene e dei vortici liquidi che tutto trascinano e sconvolgono. Venivano spesso di mattina a trovarmi mentre ero ancora a letto. Non ho mai conosciuto persone così volontariamente ignoranti, che non avessero imparato assolutamente nulla a scuola e il cui linguaggio, tuttavia, avesse in sé qualcosa di così letterario da far credere, non fosse stata la naturalezza quasi selvaggia del tono, a una sorta d'affettazione. Con una familiarità che non ritocco, nonostante gli elogi riportati qui non a mia lode, ma a lode del bizzarro genio di Céleste, e le critiche, parimenti false, ma del tutto sincere, che questi discorsi sembravano comportare nei miei confronti, Céleste, mentre io inzuppavo dei croissant nella mia tazza di latte, mi diceva: «O diavoletto nero dai capelli di ghiandaia, o profonda malizia! Chissà cosa pensava vostra madre quando vi ha fatto, perché assomigliate tutto e per tutto a un uccello. Guarda, Marie, non si direbbe che si lisci le piume? E con che eleganza gira il collo? È così leggero, sembra che stia imparando a volare, eh? Avete avuto una bella fortuna che chi vi ha creato vi abbia fatto nascere fra i ricchi. Come ve la sareste cavata se no? Sprecone come siete? Ecco, butta via il croissant perché ha toccato il letto. E adesso guardalo, sta rovesciando il latte. Aspettate, vi metto un tovagliuolo. Voi non sapreste certo come fare. Non ho mai visto uno sciocco maldestro come voi». Si sentiva a questo punto il più regolare mormorio del torrente di Marie Gineste che, spazientita, rimproverava la sorella: «Via, Céleste, perché non stai un po' zitta? Sei pazza a parlare in questo modo al signore?» Ma riusciva solo a farla sorridere. E siccome non sopportavo che mi si mettesse al collo il tovagliolo: «Ma guardalo, Marie, guardalo che salta su come un serpente, bing, un vero serpente, ti dico!» Era prodiga del resto di paragoni zoologici. Secondo lei, non si sapeva quando dormissi. Svolazzavo tutta la notte come una farfalla e di giorno ero svelto come uno scoiattolo. Sai, Marie, come quelli che si vedono da noi, così svelti che nemmeno con gli occhi si riesce a stargli dietro? Ma Céleste, lo sai che non gli piace avere il tovagliolo al collo quando mangia? Non è che non gli piaccia, lo fa per dire che non si può andare contro la sua volontà. È un signore e vuol mostrare che è un signore. Farà cambiare le lenzuola 10 volte se occorre, pur di non cedere. Quelle di ieri ormai avevano fatto il loro tempo, ma queste qui le hanno appena messe e bisognerà cambiarle di nuovo. Ah, avevo proprio ragione, non era fatto per nascere tra i poveri. Guarda, gli si rizzano i capelli, si gonfiano per la rabbia come le piume degli uccelli. Povero pulcinotto! A questo punto non era solo Marie a protestare, ma anch'io, che non mi sentivo per niente signore. Ma Céleste non credeva mai alla sincerità della mia modestia e, interrompendomi: furbacchione, dolcezza perfidia mia, cuoricino di volpe, razza di brigante, Molière. Era solo un nome di scrittore che conoscesse e lo applicava a me, intendendo con questo una persona capace sia di scrivere delle commedie sia di recitarle. «Céleste!» gridava imperiosamente Marie, la quale, ignorando il nome di Molière, temeva che si trattasse di una nuova ingiuria. Céleste si rimetteva a sorridere. «Ma non l'hai mai vista nel cassetto la sua fotografia di quando era bambino? Ci aveva fatto credere che lo vestissero sempre semplice semplice, e invece è tutto pellicce, merletti, e anche un bastoncino in mano, che neanche un principe, ma ancora niente in confronto alla sua immensa maestà e alla sua bontà ancora più profonda». «Brava», brontolava il torrente Marie, «ti sei messa anche a frugargli nei cassetti». Per distrarre Marie dai suoi timori, le chiedevo cosa pensasse del comportamento del signor Nissim Bernard. «Signore, non avrei mai creduto che esistessero cose del genere. Bisognava venire fin qui». E superando Céleste per una volta con una parola più profonda: «Vedete, signore, non si può mai sapere quel che può esserci in una vita». Per cambiare argomento, le parlavo di quella di mio padre, che lavorava giorno e notte. «Signore, sono vite di cui non si tiene niente per sé, non un solo minuto, non un solo piacere. Tutto, assolutamente tutto, è un sacrificio per gli altri. Sono vite regalate». «Guarda, Céleste, basta che posi una mano sulla coperta e prenda il suo croissant. Guarda che distinzione. Può fare le cose più insignificanti. Si direbbe che tutta la nobiltà di Francia, fino ai Pirenei, si muove in ciascuno dei suoi gesti». Annichilito da un ritratto così poco veridico, non replicavo. Céleste ci vedeva una nuova astuzia. «Ah, fronte che sembri così pura e nascondi tante cose. guance graziose e fresche come l'interno di una mandorla, manine di raso pelosetto, unghie come artigli, eccetera. Guarda, Marie, guarda come beve il suo latte, tutto compunto che mi viene voglia di dire le orazioni. Che musetto serio. Bisognerebbe proprio fargli il ritratto in questo momento. Sembra proprio un bambino. È perché bevete il latte come loro che avete la pelle chiara dei bambini? Ah, gioventù. Ah, pelle di seta. Non diventerete mai vecchio voi. Siete fortunato. Non dovrete mai alzare le mani su nessuno. Perché avete degli occhi che sanno imporre la loro volontà. Ecco che si è arrabbiata adesso. Sta lì tutto dritto, come un punto esclamativo. A Françoise non piaceva affatto che le due maliarde, come le chiamava lei, venissero a fare conversazione con me. Il direttore, che faceva spiare dai suoi sottoposti tutto quel che succedeva, mi fece osservare gravemente che non era degno di un cliente parlare con delle courier. Io, che trovavo le maliarde superiori a tutte le clienti dell'albergo, mi limitai a scoppiargli a ridere in faccia, convinto che non avrebbe capito le mie spiegazioni. E le due sorelle continuavano a venire. «Guarda, Marie, che lineamenti fini! Eh? Miniatura perfetta! Più bella della più preziosa che si può vedere dietro una vetrina, con quei suoi gesti, quelle sue parole, che lo si starebbe a sentire per giorni e notti!» Era un miracolo che fossero venute con una signora straniera, perché, senza conoscere né la storia né la geografia, detestavano ciecamente gli inglesi, i tedeschi, i russi, gli italiani, la teppaglia degli stranieri, e non amavano, con eccezioni, che i francesi. Il loro volto aveva trattenuto a tal punto l'umidità della malleabile argilla dei loro fiumi, che non appena si parlava ad uno straniero ospite dell'albergo, per ripetere le sue espressioni, Celeste e Marie applicavano la sua faccia sulla loro, la loro bocca diventava la sua bocca, i loro occhi i suoi occhi. Si sarebbe voluto conservare quelle mirabili maschere teatrali. Celeste, facendo finta di riferire semplicemente le parole del direttore o di qualche mio amico, inseriva addirittura nel raccontino dei discorsi falsi nei quali, senza averne l'aria, dipingeva maliziosamente tutti i difetti di Bloch o del primo presidente, eccetera. Era, sotto la forma del puro resoconto d'una commissione cui si era gentilmente prestata, un ritratto inimitabile. Le due sorelle non leggevano mai niente, nemmeno un giornale. Un giorno, tuttavia, trovarono sul mio letto un libro. Erano delle poesie mirabili, ma oscure, di Saint-Léger-Léger. Celeste lesse qualche pagina e mi chiese: «Ma siete proprio sicuro che siano dei versi? Non saranno piuttosto degli indovinelli?» Evidentemente, per una persona che aveva imparato bambina una sola poesia, «Ici bas, tu les lilas meurs», il salto era troppo brusco. Credo che la loro ostinazione nel non voler imparare nulla avesse qualcosa a che vedere con l'insalubrità del loro paese. Eppure non erano meno dotate di un poeta, con più modestia di quanto in genere ne abbiano costoro. Infatti, se Celeste diceva qualcosa di notevole e io, non ricordandolo bene, le chiedevo di ripeterlo, sosteneva di essersene dimenticata. Certo, non avrebbero mai letto libri, ma nemmeno ne avrebbero mai fatti. Françoise rimase piuttosto impressionata quando seppe che i due fratelli di quelle donne così semplici avevano sposato, uno, la nipote dell'arcivescovo di Tours, e l'altro, una parente del vescovo di Rodez. Al direttore la cosa non avrebbe detto niente. Celeste rimproverava a volte a suo marito di non capirla. Io mi stupivo che riuscisse a sopportarla. In certi momenti, infatti, fremente, furiosa, distruttiva, era detestabile. Dicono che il liquido salato, che è il nostro sangue, altro non sia che l'interna sopravvivenza dell'elemento marino originario. Allo stesso modo, credo che Celeste, non solo nelle sue furie, ma anche nelle sue ore di depressione, serbasse il ritmo dei ruscelli del suo paese. Quando era sfinita, era come loro, veramente a secco. Niente allora avrebbe potuto ravvivarla. Poi, di colpo, Nel suo grande corpo magnifico e leggero riprendeva la circolazione. L'acqua scorreva nella trasparenza opalina della sua pelle azzurrognola. Sorrideva al sole e diventava ancora più azzurra. In quei momenti era davvero celeste. Sebbene la famiglia di Bloch non avesse mai sospettato la ragione per cui lo zio non faceva mai colazione a casa e sin dall'inizio avesse accettato la cosa come una mania da vecchio scapolo, connessa forse alle esigenze di una relazione con qualche attrice, tutto quanto riguardava il signor Nissim Barnard era tabù per il direttore dell'albergo di Balbec. Ecco perché, senza nemmeno metterne al corrente lo zio, non aveva osato, in fin dei conti, dare torto alla nipote, pur raccomandandole un po' di discrezione. Ora, la ragazza e la sua amica, che per qualche giorno si erano figurate di venire escluse dal casinò e dal Grand Hotel, vedendo come tutto si accomodasse, furono felici di mostrare a quei padri di famiglia, dai quali erano tenute in disparte, che potevano impunemente permettersi qualsiasi cosa. Non arrivarono certo al punto di replicare la scena pubblica che aveva disgustato tutti, ma poco a poco, insensibilmente, ripresero i modi di prima. E una sera, in cui uscivo dal casinò a luci semispente, assieme ad Albertine e a Bloch che avevamo incontrato, le due passarono abbracciate, senza smettere un istante di baciarsi, e arrivate alla nostra altezza, lanciarono dei gridolini, delle risa, degli strilli indecenti. Bloch abbassò gli occhi, per non mostrare che aveva riconosciuto la sorella, mentre io mi torturavo, pensando che la destinataria di quel linguaggio particolare e atroce era forse Albertine.